in ogni mese e anche a marzo. Non mi rompete il quarzo. Tempo. Se vuoi emozionarti, devi sintonizzarti. Il cammino di Gigi D'Agostino. Danziamo l'amore. M2O, musica allo stato puro. Voglio la cassa che mi scassa.

Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me, una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. Sempre con te, credo in quel che ho provato e quello che vedo.

spazio. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Thank you.

domani è domenica e quindi ci sentiamo lunedì. Grazie.